Allora, sono le 13:18 di martedì 6 febbraio 2024. Diciamo che esplorando le varie possibilità offerte dal canale Telegram, scopro che tra le varie cose è possibile fare una specie di Twitter Space, e cioè una sorta di registrazione audio collettiva, moderata naturalmente dal proprietario del canale, e che può diventare quindi in questo caso una specie di pendo delirio aperto, un open pendo delirio. Già da un po' di tempo mi ero cimentato con Twitter Space, ma l'idea di continuare su una piattaforma dove imperversa un personaggio come Elon Musk un po' mi inibisce in questo senso, quindi mi sono detto, visto che l'idea di pendolire originaria era sperare che qualcun altro facesse un diario come il mio in forma audio, un audioblog, e devo dire che non è successo. Cioè, la gente ha fatto i podcast con sigle, bumper e velleità di linguaggi radiofonici che invece io non ho. Allora, l'idea potrebbe essere quella di far partecipare anche le altre persone, perché no? Anche per continuare questa tradizione empirica di sperimentazione di tutto quello che di nuovo la rete mette a disposizione. E così, insieme a due amici, che sono Marco Giovenale e Fabio Benincasa, inaugureremo questa modalità. Ve lo dico così magari vi prendete la data e partecipate anche voi. Abbiamo deciso di organizzare una di queste chat vocali di gruppo domenica 18 febbraio alle ore 18. Tanto è arrivata la metro, questo per contestualizzare la natura pendolare di questa registrazione. Siete tutti invitati e potrete tutti Un abbraccio. collaborare, contribuire. Vorrei farla molto libera, però in realtà c'è un tema, che poi è un tema di cui ho parlato a lungo proprio con Fabio Benincasa e Marco Giovenale. Il primo è un filosofo, il secondo è l'autore di uno dei miei blog preferiti, che si chiama slowforward.net. Mi piacerebbe parlare di spazi indipendenti per l'arte e la cultura. Se hanno ancora un senso, come farli vivere, quali sono le vostre esperienze? Spesso sono cose che aprono e poi chiudono abbastanza rapidamente, quindi c'è una fuggevolezza da inseguire. Intanto però risegnatevi la data, che è appunto domenica 18 alle ore 18, e cercherò nel frattempo di capire come funziona. Farò forse dei test, vedrete delle cose strane magari sul canale Telegram, che poi verranno cancellate anche per una questione di vergogna, di pudore. Ma il 18 non cancelleremo assolutamente nulla. A quel punto, quello che va in onda diventa un altro episodio di Open Pendo Delirio. Un abbraccio, a presto.